L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale parleremo di cambiamenti climatici. Nella prima parte della trasmissione ci occupiamo di cambiamenti climatici e Antartide con una ricerca dell'Università di Siena. Nella seconda parte invece di cambiamenti climatici e loro impatto sulla salute umana con un'altra ricerca della Università Bocconi di Milano. L'Antartide, lo diciamo a mo' di premessa, ha uno status politico che è stato regolamentato dal 1959 dal Trattato Antartico, che vieta le attività militari e minerarie e sostiene la ricerca scientifica. Ebbene, proprio da un periodo, dall'ennesima, anzi potremmo dire, missione in Antartide per questioni scientifiche, è appena rientrata Silvia Olmastroni, che è ricercatrice della Università di Siena e lavora anche presso il Museo Nazionale dell'Antartide, sempre a Siena. Silvia Olmastroni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E la prima domanda non può essere che quella di illustrare i motivi per i quali lei e i suoi colleghi se ne siete impegnati in Antartide, quindi qual è la ricerca che state conducendo? Sì, noi stiamo lavorando su un progetto a lungo termine che ha come oggetto lo studio di una specie in particolare, che è il pinguino di Adelia in Antartide, appunto, e in specifico nel mare di Ross, in vicinanza della base italiana Mario Zucchelli. Questo è un tipo di ricerca che si basa su dei rilievi annuali dei parametri riproduttivi e di ecologia marina. Perché? Perché questa specie che è distribuita, diciamo, lungo tutta la costa del continente antartico, è un buon bioindicatore, cioè ci permette di valutare in base alla qualità della riproduzione, alla sopravvivenza annuale, anche l'ecosistema in cui questa specie vive. Quindi diciamo che è molto studiata anche da colleghi di altre università straniere, e questi dati poi servono proprio per misurare anche le risposte dell'ambiente in base alle risposte dell'organismo stesso. Se ho ben capito, il problema, la questione che volete analizzare è l'impatto che i cambiamenti climatici hanno sulla vita di questi animali. Dunque, senz'altro i cambiamenti in Antartide ci sono, ma ci sono anche sempre stati. Questi studi si basano anche su una multidisciplinarietà, cioè dobbiamo anche capire tramite gli studi paleoclimatici che cosa è successo nel passato. Ora attualmente c'è senz'altro un cambiamento soprattutto nell'area dell'Antartide, che è la penisola antartica, quindi un'area più lontana da dove noi operiamo questi studi, ma in quest'area ovviamente studi simili vengono portati avanti. E che cosa viene visto? Viene visto che effettivamente ci sono alcune aree dove queste popolazioni stanno diminuendo, probabilmente in associazione anche alla mancanza di prede, poiché il ghiaccio marino ha un tempo di persistenza minore proprio a causa del riscaldamento globale. Altre aree invece, paradossalmente, come quella dove noi stiamo facendo ricerca, stanno subendo un raffreddamento dovuto a dei venti polari. Quindi lì il ghiaccio marino persiste più a lungo e queste popolazioni sono in aumento, quindi non sono delle risposte lineari nel tempo, ma dobbiamo cercare di interpretarle, perché spesso abbiamo delle risposte opposte, e quindi la generalizzazione in questo caso non va bene. Ci sono dei cambiamenti che i modelli climatici ci suggeriscono che potrebbero portare appunto a una diminuzione drastica di queste popolazioni. L'importante è cercare di trovare delle misure di conservazione e anche di poter misurare questi cambiamenti mentre avvengono, in modo magari da poter apportare delle misure di mitigazione di questi cambiamenti. La questione è tutta legata ai cambiamenti climatici? Può dipendere da quelli, ma dipende anche, dovrei a questo punto allargare il discorso anche alla presenza umana, perché l'attività in Antartide è crescente sia per le basi scientifiche, quindi sia per la nostra attività, che per il turismo, che per l'interesse verso un futuro sfruttamento. Quindi diciamo che tutte queste cose insieme potrebbero comunque andare a sommarsi al cambiamento climatico in atto. Allora, io immagino che sull'aspetto del turismo e sull'aspetto scientifico si possa intervenire, diciamo, più facilmente per ridurre, diciamo, questa pressione umana. settimana. Sull'aspetto della ricerca e dello sfruttamento delle risorse, credo che sia particolarmente difficile. Adesso lei frequenta l'Antartide da molto tempo, sicuramente la questione ce l'ha ben più chiara di me, ma mi pare che siano in aumento e siano difficilmente frenabili. Sì, infatti questo è un problema anche più urgente per alcuni di noi, perché come lei giustamente ha notato, lo sfruttamento soprattutto della pesca commerciale per quanto riguarda le risorse marine è in forte aumento, e questo crea tutta una serie di cambiamenti a livello della catena trofica, quindi anche se non direttamente correlato per esempio al pinguino, perché nel mare di Ross non viene pescato il krill ma altre specie soprattutto di pesce, diciamo che l'alterazione però si ripercuote a vari livelli della catena alimentare. Come lei sa, l'Antartide è regolata da un trattato internazionale. Per quanto riguarda invece le acque, quindi tutte le risorse marine, si entra nella legislazione, nel diritto internazionale, e non sempre ci sono delle leggi applicabili, cioè ogni paese poi deve decidere come comportarsi. La riporto sui pinguini a questo punto, sulla ricerca specifica per la quale ci siamo in contatto. Come si svilupperà? Leggevo anche proprio di piccoli dei piccoli strumenti che vengono messi alla zampa del pinguino. Che cosa registrano? Allora, sono dei vengono chiamati geolocatori, perché funzionano con la intensità luminosa, e quindi durante l'inverno dovrebbero riuscire a darci poi un'idea su come si è mosso il pinguino nelle aree invernali. Quindi i tempi sono questi. Adesso abbiamo fatto tutta una serie di rilievi, cioè le aree di alimentazione estive, abbiamo visto che questi pinguini possono percorrere anche oltre 100 km in 4-5 giorni per andare a alimentarsi e tornare alla colonia, quindi abbiamo tutta una serie di rilievi che saranno elaborati a breve, quindi saranno oggetto di pubblicazione a breve. E per quanto riguarda invece gli strumenti, che per quell'area è la prima volta che riusciamo a mettere, ci aspettiamo di poterli recuperare tra un anno, speriamo in larga percentuale, perché ovviamente sono soggetti a rottura, a malfunzionamento, date anche le temperature invernali. E questi dati poi saranno elaborati insieme anche ai colleghi americani, con la speranza di potervi effettuare questo esperimento da tre punti diversi della costa del Mare di Ross, per una collaborazione ancora più grande, che sarà Nuova Zelanda, Stati Uniti e Italia. Perché facciamo questo? Perché potremo determinare quelli che in ecologia vengono chiamati gli hotspot, sia estivi che invernali, cioè le aree di foraggiamento dove le risorse marine sono più abbondanti, e quindi troviamo una maggiore concentrazione di predatori. Questo ci dà una misura dell'ecosistema e anche uno stato di salute dell'ecosistema, quindi attraverso il predatore noi abbiamo delle informazioni anche sulle risorse stesse. L'ecosistema del Mare di Ross rappresenta lo 0,1% degli ecosistemi sul pianeta Terra, ma è attualmente stato giudicato come l'area meno alterata dall'uomo, cioè rimane ancora come un ecosistema praticamente inalterato, e quindi l'idea sarebbe quello di far vedere l'importanza di questo ambiente, di riuscire a conservarlo prima ancora che venga ulteriormente danneggiato. È appunto anche come luogo in cui magari si può avere una percezione di quello che sta accadendo in maniera più precisa. Certo. Non è contaminato altrimenti. Sì, esatto. Noi, se riusciamo a avere delle stime, dei parametri in questo ecosistema, è come se eliminassimo un rumore di fondo che invece nei nostri ambienti purtroppo non riusciamo più a isolare, perché siamo andati troppo oltre. Se pensa al discorso dei predatori nell'Atlantico, nei mari del nostro emisfero, purtroppo su certe aree del pianeta siamo ormai così avanti nell'aver manipolato, nell'aver rimosso certe specie, che non riusciamo più a capire alla fine quali sono gli effetti diretti effetti e gli effetti invece che possiamo, su cui possiamo effettivamente agire. Purtroppo, nonostante questa grande attenzione scientifica su quell'area, poi c'è appunto un altrettanto grande sfruttamento, quindi forse non c'è una percezione chiara di quello che rappresenta quest'area. In realtà la percezione, le assicuro che c'è, perché presso le commissioni internazionali come il CAMLAR o la TCM o tutte queste sigle che presiedono, diciamo, alle protezioni ambientali, alle gestioni sostenibili della pesca, c'è stato un grande dibattito negli ultimi 4 anni, anche piuttosto acceso. Era stata ad esempio richiesta un'area marina protetta totale per il Mare di Rosso, sarebbe stata la prima in tutto il pianeta, la più grande, però alla fine è stata più e più volte rimandata indietro, perché non tutte le nazioni, per esempio, che aderivano al CAMLAR, questa commissione per la conservazione delle risorse antartiche marine viventi, non tutte le nazioni hanno dato l'ok e quindi per il momento non è stato possibile. Ma c'è un accesso. Ma chi è che sfrutta in modo pari? Cioè, quali paesi, per capirsi, hanno come quell'area? Vabbè, l'ultimo veto è stato da Russia e Cina, ma in passato ci sono state altre nazioni che hanno diciamo bloccato questo processo. Ma cosa si pesca là? Cosa si pesca là di così? C'è una specie, diciamo, che sul mercato internazionale è diventata molto ambita, molto costosa. È un pesce che si chiama Dissosticus mosoni ed è un pesce di circa 30 kg, può arrivare fino a 1 metro di grandezza, vive a lungo, vive oltre 30 anni. E è diventato famoso come, si chiama in inglese, Chilean sea bass, quindi una specie di orata cilena, la troviamo su vari mercati e il problema è che appunto spesso viene pescata perché ha il reddito che vi ricavano è abbastanza cospicuo e quindi si è scatenata anche la pesca illegale, si parla di migliaia di tonnellate. E una specie così longeva che viene rimossa massivamente dall'ecosistema, che tra l'altro è anch'essa un predatore intermedio di altre specie ed è preda di foche e alcuni tipi di orche, lei capisce che la rimozione massiccia porta delle alterazioni nella catena trofica piuttosto velocemente. Allora, ringrazio molto per la sua disponibilità Silvio Olmastroni, ricordo l'Università di Siena. Allora ci risentiamo prossimamente con gli aggiornamenti, insomma, via via che il progetto prosegue. Va bene, la ringrazio e buona serata. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini, continuiamo a parlare di cambiamenti climatici. Prima della viabilità abbiamo parlato con Silvia Olmastroni della Università di Siena di uno studio che si sta compiendo in Antartide sui pinguini. Ora invece vediamo quali possono essere gli impatti dei cambiamenti climatici sulla salute umana attraverso un'analisi fatta dal CERGAS, centro di ricerca della Università Bocconi che si occupa di management sanitario. Presso il CERGAS è ricercatore Guglielmo Pacileo che ha condensato questa ricerca in un articolo per Sistema Salute, la rivista italiana di promozione della salute ed educazione sanitaria. Intanto diamo il benvenuto, il buon pomeriggio a Guglielmo Pacileo. Buongiorno a voi, grazie per avermi contattato. Ecco, l'articolo che lei ha curato si intitola Globalizzazione e salute, lo stato dell'arte, determinanti globali e rilevanza per i sistemi di salute. Io le chiedo un po' di sciogliere questo titolo e di illustrarci la ricerca. Sì, allora, più che uno studio è un'analisi della letteratura disponibile sul tema che negli ultimi anni è diventato sempre più interessante e quindi inizia a essere studiato con una maggiore attenzione e sistematicità. I dati sono quelli relativi al principale fenomeno legato al cambiamento climatico che è l'innalzamento della temperatura, quindi si è visto nel corso degli anni che la temperatura media a livello globale è aumentata e la domanda è come questo aumento della temperatura possa impattare sulla salute delle persone. Sono vari i modi attraverso cui questo può accadere per il fatto che alcune malattie infettive diffondono maggiormente o cambiano le aree in cui sono presenti, avviene attraverso il fatto che l'aumento della temperatura ha un impatto negativo in alcune aree sulle coltivazioni, quindi questa ha una ricaduta negativa sulla possibilità delle popolazioni di accedere al cibo, L'altro elemento è quello che è più evidente, è il fatto che il cambiamento climatico comporta dei fenomeni eccezionali come i cicloni, i tifoni, le inondazioni, e questo provoca delle vittime collegate a questi fenomeni eccezionali. Quindi direi che i canali attraverso cui l'innalzamento della temperatura determina l'aumento delle morti collegate a questo fenomeno sono essenzialmente questi tre canali principali. La letteratura che lei appunto citava ci fa anche capire che la tendenza è un aggravamento, perché i dati, quelli di anni fa comparati con quelli attuali, mostrano un peggioramento della situazione, no? Esatto, perché le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2000 stimavano appunto in 160.000 i morti all'anno dovuti al cambiamento climatico. L'anno scorso sono state aggiornate attraverso un nuovo studio, e questo studio prevede che fra il 2030 e il 2050, mantenendo le condizioni stabili, quindi senza ulteriori innalzamenti della temperatura, le morti passeranno all'anno da 160.000 a 250.000 morti a livello mondiale. Quindi il dato è evidente, c'è un trend in crescita, e il trend è in crescita soprattutto nei paesi più poveri. I contraccolpi sulla salute saranno più pesanti nelle aree più già svantaggiate del mondo, così come del resto è l'impatto dei cambiamenti climatici, perché leggevo che in questo stesso rapporto si stima che l'impatto sarà nel 2030 sull'Africa subsahariana e poi nel 2050 sull'Asia meridionale, quindi già su aree che sono instabili o che hanno delle fragilità, che comunque non riescono a fronteggiare anche le emergenze di oggi, figuriamoci quelle aggravate del 2050. Esatto, perché esiste questo paradosso, diciamo, morale, per cui le popolazioni che meno hanno contribuito alle emissioni di gas serra, che sono la causa principale dell'innalzamento della temperatura, sono quelle che registrano il maggior carico di malattia collegato a questo innalzamento. Il calcolo è presto fatto, si calcola che considerando il carico di malattia come la combinazione fra morti e disabilità collegata al fenomeno, il 99% di questo carico è sulle popolazioni che risiedono in aree che hanno contribuito pochissimo all'inquinamento, all'emissione di gas serra e al fenomeno del cambiamento climatico. Quindi questo creando a sua volta un altro paradosso, che è quello di non interveniamo perché da noi la cosa non è così evidente. In realtà poi dopo ci sono degli effetti, magari ricordiamo agli ascoltatori che quando arrivano, non so, i migranti dall'Africa subsahariana ci sono motivi di guerra, ci sono anche motivi di questo tipo, può essere che contribuiscano. Sì, questo è verissimo, perché ci sono vari livelli per cui l'opinione pubblica italiana potrebbe essere in qualche modo attenta a questi cambiamenti climatici. Io ne citerei alcuni. Il primo, che non è del tutto vero che questi fenomeni non ci riguardano, perché ogni anno vediamo in alcuni periodi che l'aumento delle piogge, eventi eccezionali climatici, alcune morti li provocano. L'altro punto è che il fenomeno delle ondate di calore che ogni anno avvengono e che per esempio nel 2003 provocarono la morte di tantissime persone anziane sono un altro epifenomeno collegato all'innalzamento della temperatura. Il terzo punto, quello che diceva lei, vivere in aree così svantaggiate è uno dei meccanismi che spingono le persone a lasciare queste aree e a rivolgersi in aree in cui è possibile avere delle occasioni di vita migliori anche in termini di opportunità di salute. Quindi l'intervento, diciamo, che possiamo ragionevolmente pensare, oltre a quello di ridurre le nostre emissioni, fermare, perché ormai non si può più invertire i cambiamenti climatici, è anche magari un intervento, stavo pensando a la rivista Lancet, che tra le varie cose suggeriva anche un intervento sulle strutture sanitarie dei paesi che vengono colpiti, che appunto non hanno la capacità di fronteggiare certe emergenze. Certo, le strutture sanitarie dei paesi poveri, soprattutto quelli più svantaggiati, sono storicamente deboli da non riuscire a fronteggiare l'ordinario, e hanno quindi ancora più difficoltà più difficoltà nell'affrontare fenomeni straordinari. Cito uno per fare un esempio, l'Ebola ha colpito maggiormente proprio in quei paesi in cui le misure minime di igiene non hanno consentito di arginare il fenomeno della diffusione dell'epidemia. Quindi è vero che più il sistema sanitario è debole, meno è in grado di fronteggiare quelli che sono i rischi collegati all'aumento delle temperature. Un'ultima curiosità riguarda il perché alla Bocconi si studiano queste cose, cioè, mi piacerebbe sapere perché avete intrapreso questa analisi della letteratura esistente su questo specifico tema. Allora, una premessa è che all'interno della Bocconi esiste dal 1978 un centro di ricerche che si occupa di tutti i temi collegati alla sanità, quindi c'è, diciamo, una tradizione antica in Bocconi di interesse sui temi della sanità. All'interno del vastissimo mondo della sanità e all'interno del CERGAS ci sono varie aree di ricerca, una di queste aree è sui temi che vengono etichettati come salute globale, quindi la salute che è collegata a quei fenomeni che in qualche modo sono transnazionali, che non dipendono dalle azioni soltanto degli stati, ma che dipendono dal coordinamento che gli stati sono in grado di fare su alcuni temi. Su questo tema ci sono alcuni ricercatori come chi parla che si occupano di studiare i fenomeni, di collegare i fenomeni alla salute e magari anche di immaginare delle soluzioni che possano in qualche modo gestire in maniera più efficace questo tipo di attività. E in questo caso quali soluzioni propone? Che è difficile proporre soluzioni, ma al massimo suggerimenti. Complicatissima. Posso dire quale può essere il ruolo dell'università rispetto a questi temi? Il ruolo dell'università deve essere quello di cercare evidenze su fenomeni come per esempio il cambiamento climatico e la salute, perché soltanto riuscendo a portare evidenze si è in grado di coinvolgere l'opinione pubblica su questi temi e poi a cascata coinvolgere anche i governi su come in qualche modo modificare un modello di sviluppo economico che ha portato ricchezza ma che ha anche delle difficoltà, delle criticità che devono essere in qualche modo affrontate. Io vorrei in conclusione ricordare così o comunque segnalare agli ascoltatori che l'articolo dal quale abbiamo preso spunto per questa conversazione non riguarda solo i cambiamenti climatici, no? Ma in realtà è un po' più ad ampio spettro, parte dalla crisi economica, i cambiamenti climatici, gli stili di vita, quindi tutta una serie di problemi che vengono appunto studiati, per i quali si dà uno spaccato, una visione, non diciamo una soluzione, per il futuro, che riguardano la salute a livello mondiale, diciamo minacciata da questi tre grandi. Certo, ci sono tutta una serie di fenomeni che vengono etichettati come determinanti sociali sulla salute, vuol dire non ci si ammala solo perché ci sono dei virus per cui ci si infetta, non è più il tempo delle malattie infettive che come nell'Ottocento determinavano gran parte dell'aspettativa di vita delle persone, ci sono tanti altri fenomeni determinanti appunto che non sono cause dirette di malattia ma che innescano dei fenomeni che poi sulle persone più a rischio provocano malattie e disabilità. Ma per curiosità, i determinanti di un secolo fa quali erano? No, un secolo fa c'erano delle cause, c'erano le malattie infettive come la tubercolosi, come la malaria che era diffusa anche nelle nostre aree, che erano delle cause dirette di malattia. Oggi che cosa succede? Che in tutto il mondo, anche nei paesi più poveri, è aumentata la capacità di gestire queste cause di malattia e quindi le popolazioni vivono più a lungo. Vivendo più a lungo sono esposte a più fattori di rischio determinanti e tutto il sistema della salute deve essere in grado di gestire questi determinanti attraverso l'educazione, attraverso creare delle condizioni di lavoro che siano rispettose dei diritti dei lavoratori, attraverso l'informazione su abitudini di vita a rischio come il fumo o come l'alimentazione che determina l'obesità. Oggi un fenomeno che veramente ha le caratteristiche dell'epidemia è il fatto che le nostre popolazioni registrano un aumento ponderale, soprattutto nei più piccoli, che sicuramente nei prossimi anni determineranno gravi problemi sulle aspettative di vita delle fasce più giovani. Grazie a Guglielmo Pacileo per essere stato con noi. Grazie a lei. E grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. L'altro pianeta torna la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci c'è l'altropianeta@radio24.it, che è il nostro indirizzo email. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.